successo un anno fa. E adesso faccio un po' di tutto, aspetto e non so più che cosa aspetto. Tornare in Africa, ma i soldi chi ce l'ha? E in questo bar della stazione guardo la televisione, com'è inutile la domenica, per chi è libero senza libertà. Solo a bar come me, solo al bar come me, solo, solo al bar come te, solo al bar come te, solo. Io sono un istrice sperduto di città, e fra i semafori e la gente vado e non mi fa paura niente. Ma la domenica io rubo in questo bar l'impronta calda dei sederi e i baci abbandonati sui bicchieri umidi come lacrime, solitudine. Sfiorano, siamo tutti qua come ladri di felicità. Soli al bar, soli al bar, come me, come te, soli, soli al bar, soli al bar, come me, come te, soli. Sui tavolini davanti a un caffè, come dei manichini tagliati a metà. C'è un giardino di gente che pensa per sé a Milano. Marciapiedi, tutto quel che vedi è solo piedi, e marciapiedi nel deserto, a piedi finché trovi un bar aperto. Piedi, piedi, piedi, piedi, marciapiedi, come pezzi manichini, piedi, marciapiedi, su questi tavolini che ci tagliano a metà. Piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, vedo solo piedi, piedi, marciapiedi, vedo solo piedi, marciapiedi, piedi, marciapiedi, piedi, marciapiedi, piedi, la solitudine che è strana libertà. Noi siamo solo manichini da voi, piedi, marciapiedi, piedi, piedi, piedi, marciapiedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, piedi, pi